L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera, ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta che però ha un forte legame con le puntate precedenti. Oggi infatti proseguiamo nella nostra ricognizione nel mondo del recupero e riciclo dei rifiuti. Nelle scorse puntate abbiamo affrontato la questione da un punto di vista più generale con il CONAI, il Consorzio Nazionale per il Recupero degli Imballaggi, con il suo bilancio 2012 e le prospettive per il 2013. Abbiamo parlato con dei fabbricanti di imballaggi molto attenti al recupero, come quelli riuniti in Anfima, l'Associazione Nazionale tra i Fabbricanti di Imballaggi Metallici e Affini. Abbiamo sentito il punto di vista di Assambiente, l'associazione delle imprese che lavorano nel campo dell'igiene urbana, rifiuti speciali, bonifiche, con tutti i loro problemi e le loro richieste. E sono tutte puntate che potete riascoltare sul nostro sito internet all'indirizzo radio24 e sole24ore.com nella pagina dedicata al programma L'Altro Pianeta. Questa settimana andiamo a conoscere un altro settore specifico, quello dei RAE, ovvero i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo faremo con Ecodom, che è il primo consorzio italiano nella gestione dei RAE. La raccolta in questo settore in Italia non brilla, a differenza di molte altre raccolte, come ad esempio quella del vetro o della carta. E per di più, ci dice Giorgio Arienti, che è il direttore generale di Ecodom, c'è stato un netto peggioramento in quest'ultimo anno per la crisi, ma non solo. Contrastare questo andamento però si può con sforzi legislativi, ma anche con sforzi individuali, quindi quelli che possiamo fare tutti noi. Per la prima volta quest'anno non solo Ecodom, ma l'intero sistema RAE che è partito 5 anni fa registra una flessione delle quantità raccolte, una flessione che è significativa, è importante, è dell'ordine del 17%. È una flessione che viene spiegata da almeno due fattori. Da una parte c'è certamente un calo dei consumi che determina certamente una diminuzione dei rifiuti che vengono buttati via dai cittadini, ma questo spiega probabilmente soltanto un 5, 6, forse in per talune categorie 8% della diminuzione. Il resto è da imputare a flussi paralleli di rifiuti, cioè soggetti che cercano di intercettare questa tipologia di rifiuti per trarne il massimo profitto possibile, cioè per recuperare le materie prime più facili da estrarre, l'acciaio, il rame, l'alluminio, e dimenticarsi letteralmente di tutto il resto, buttandolo da qualche parte, abbandonandolo da qualche parte, con gravi problemi ambientali. Vedo che addirittura voi calcolate, si calcola un 3 su 4 per alcuni, ovviamente non per tutti, ma per alcuni, quindi una parte molto consistente. Sì, e questa è la situazione paradossale, perché il sistema formale, cioè quello istituito dai produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, in Italia ha raccolto l'anno scorso circa 240.000 tonnellate. Queste sono un quarto delle tonnellate che nel nostro paese si generano ogni anno, che sono appunto circa pari a 1 milione. Quindi, nonostante la crisi, il potenziale di crescita nella raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche è enorme. Potremmo passare appunto da 240.000 tonnellate forse a 1 milione. C'è purtroppo questo problema dei flussi paralleli, che in alcuni casi nel nostro paese è quasi perfettamente legale e che invece in taluni casi è completamente illegale. C'è questo problema dei flussi paralleli che penalizza in modo molto serio sia l'ambiente sia un settore importante della green economy italiana. Tanto più in un periodo come questo, nel senso che il recupero di certe materie potrebbe molto avvantaggiare. Certo, è fondamentale poter riciclare correttamente e reinserire nei processi produttivi le materie prime estratte dai RAE per due ordini di problemi. Il primo è che noi non siamo un paese ricco di materie prime, no. Quindi è un peccato perdere questa opportunità, e dall'altra parte perché dal punto di vista energetico le materie prime estratte dai RAE costano molto di meno delle materie prime ricavate dalla miniera, quindi dal punto di vista energetico è meglio riciclare che andare a prendersi, ammesso di averle, le materie prime in miniera. Senta, la riporto su questi flussi illegali. Lei diceva quasi legali in Italia, cioè cosa succede? Il problema del paese è che esiste una fortissima disomogeneità autorizzativa per quanto riguarda gli impianti di trattamento dei rifiuti, e in particolare gli impianti di trattamento dei RAE. Le autorizzazioni a questi impianti vengono rilasciate su base regionale o in taluni casi su base provinciale con criteri francamente un po' troppo disomogenei. E questo fa sì che esistano oggi nel nostro paese circa 200 impianti autorizzati al trattamento dei RAEE, ma di questi, a quanto risulta dal sistema ufficiale che è capo il centro di coordinamento RAEE, soltanto una settantina sono effettivamente in grado di fare un corretto trattamento dei RAEE. Gli altri fanno un mestiere diverso, gli altri, pur avendo una regolare autorizzazione, si preoccupano solo di estrarre le materie prime più economicamente convenienti e non si preoccupano affatto dell'aspetto ambientale. Faccio un esempio molto semplice che permette però di capire il problema. Un frigorifero può essere davvero visto come un ammasso di rame, alluminio e plastica, ma altrettanto importante tenere presente che un frigorifero è pieno di un gas ozono lesivo che si chiama CFC, che va estratto con cautela utilizzando impianti particolari e smaltito in modo sicuro. Se ci si sofferma solo sul primo aspetto, voglio le materie prime contenute nel frigorifero, la lavorazione del frigorifero costa pochissimo, il ricavo è alto, il vantaggio economico è significativo, peccato che l'ambiente ne abbia un danno enorme. Quello che serve in Italia è, credo, intervenire sull'aspetto autorizzativo per mettere un filtro più serio, più strutturato alle autorizzazioni rilasciate e poi dall'altra parte, forse ancora più importante, far partire un serio sistema di controlli sulla filiera. La cosa paradossale è che in questi 5 anni di operatività del sistema RAEE non è mai partito il sistema di controlli per mancanza di un decreto attuativo previsto dal decreto legislativo del 2005 e mai emanato. Dal 2005 al 2013, in 8 anni, lo Stato non è stato capace di emanare un decreto che facesse partire il sistema dei controlli. E non siamo un paese in cui si può lavorare senza controlli, non siamo un paese che naturalmente orientato certo, alla legalità e alla correttezza del nulla, e abbiamo assolutamente bisogno di controlli. Quindi nel frattempo sono aumentate le autorizzazioni e sempre con quella disomogeneità che diceva prima, ma niente controlli, quindi la situazione ovviamente via via peggiora probabilmente, certo. Non possiamo prevedere un futuro roseo, ecco, se andiamo avanti così. Noi cerchiamo di essere ottimisti, perché se guardo indietro a 5 anni fa il sistema era a zero, lo Stato italiano raccoglieva meno di 80.000 tonnellate di RAEE, oggi siamo a 240.000, ne abbiamo triplicato in soli 5 anni, quindi potenzialmente possiamo crescere. Certo, bisogna intervenire anche dal punto di vista normativo e credo siamo alla vigilia di una grandissima opportunità che è il recepimento da parte dello Stato italiano della nuova direttiva sui RAEE che è stata emanata lo scorso anno. C'è un termine che è febbraio del 2014 entro il quale il governo dovrà emanare il nuovo decreto legislativo. Ci auguriamo che questa sia l'occasione per un serio ripensamento della norma che regola il sistema di gestione di questi rifiuti, per renderla più semplice, più praticabile, per inserire più controlli in modo tale che si possano anche catturare quei 3/4 dei RAEE che oggi sfuggono all'appello. Compresi i decreti attuativi questa volta. Compresi se servono i decreti attuativi. Sono un po' preoccupato perché in realtà a febbraio 2014 mancano pochi mesi. E il processo di definizione di questa nuova normativa di fatto non è ancora iniziato, o quantomeno non è iniziato un confronto con le parti coinvolte. Io mi auguro che, come accade in tutti i paesi europei, anche in Italia il processo di definizione della nuova normativa passi attraverso un confronto con i soggetti, noi e tutti gli altri che sulla filiera lavorano, per far tesoro delle esperienze positive e per far tesoro anche delle tante esperienze negative che abbiamo fatto in questi anni. Certamente. Senta, noi come cittadini possiamo fare poco in questa cosa, cioè noi non possiamo scegliere, no, quale impianto portare il nostro vecchio frigorifero, perché questo non compete a noi, quindi da questo punto di vista purtroppo... Però ci sono almeno 2 cose che possiamo fare e che vale la pena di ricordare. La prima è di non buttare questa tipologia di rifiuti tra i rifiuti indifferenziati, e invece purtroppo è quello che sistematicamente accade con le piccole apparecchiature. Pensiamo al rasoio, allo spazzolino elettrico, alla radiosveglia, alle piccole cose che tendenzialmente buttiamo nel sacco nero, o le lampadine a risparmio energetico, che buttiamo nel sacco nero della spazzatura indifferenziata perché siamo pigri o distratti. E questa è una cosa che possiamo certamente fare. La seconda cosa che dobbiamo ricordarci di fare è che questi rifiuti vanno consegnati ai soggetti che sono incaricati di fare la raccolta, e sono solo due: gli enti locali, i nostri comuni, nelle isole ecologiche o col servizio di raccolta domiciliare, oppure i negozianti che hanno l'obbligo di ritiro del nostro rifiuto quando compriamo un'apparecchiatura equivalente. Ma non dobbiamo dare questi rifiuti a qualcuno che passa a casa nostra e si offre di portare via, insieme alla rete del letto, al materasso e alla bicicletta, anche il frigorifero, perché certamente in questo caso il frigorifero prende una destinazione impropria. Quindi questa è un'attenzione che possiamo avere, insomma, ecco. Certo, penso proprio di sì. E che dire, come vedo che la Lombardia resta in testa, poi Veneto, Sicilia, se guardiamo la quantità di raccolta, qui direi nulla di nuovo su questo aspetto, probabilmente, sulle quantità. Nulla di nuovo, continua a esserci un'Italia a due velocità, ci sono zone in cui il comportamento dei cittadini e dei soggetti che effettuano la raccolta è positivo e sta migliorando, ci sono zone in cui purtroppo si sconta un ritardo strutturale perché mancano le isole ecologiche, perché mancano i servizi di raccolta e anche i comportamenti virtuosi dei cittadini sono scoraggiati. In generale però il dato che deve fare davvero riflettere è che il paese è fermo a 4 kg pro capite, ogni anno vengono gestite 4 kg di RAEE per ogni cittadino, che poi fanno il 240.000 tonnellate di cui parlavamo prima. Potremmo arrivare a una cifra intorno ai 15 kg pro capite, e a breve, con appunto il recepimento della nuova direttiva comunitaria, gli obiettivi diventeranno molto ambiziosi. Nel 2019 l'obiettivo dovrà essere di circa 12 kg per abitante. Quindi dobbiamo necessariamente ricominciare a correre per non poi cadere in una procedura di infrazione da parte della Comunità Europea. Sicuramente, e gli obiettivi sono ambiziosi, devono essere ambiziosi anche per noi, insomma, da un punto di vista, insomma, personale, ecco. 4 kg effettivamente sono niente, basta cambiare un frigorifero una volta, 4 kg abbiamo già superati abbondantemente. Allora, grazie mille, ci risentiamo presto, spero con buone notizie. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Grazie. Grazie ancora una volta a Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana alla stessa ora, perché per il momento non cambia il palinsesto di Radio 24. Vi ricordo che per scriverci l'indirizzo è l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.